Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Mi dicono che si parlerà di antocianine. E non solo. Parleremo di, vuoi anticiparlo? Nutraceutica. Partiamo. Bel nome. Esperta di nutraceutica è la dottoressa Maria Daglia. Benvenuta qui a Food Lab. Grazie mille, vi saluto e saluto anche i vostri ascoltatori. Dottoressa, grazie. Lei è coordinatrice di un gruppo di ricerca di chimica degli alimenti e nutraceutica del Dipartimento di Scienze del Farmaco all'Università di Pavia e coordina anche un master in prodotti nutraceutici. Quindi, forse per chi non sapesse che cos'è la nutraceutica, vogliamo dare una definizione? Ecco, dai, incominciamo da qui. Certo, si può incominciare con una definizione dicendo che è una nuova disciplina che studia le proprietà salutistiche degli alimenti e dei componenti che costituiscono gli alimenti. È un termine nuovo, è stato coniato alla fine degli anni 90 da un biochimico americano, ma è oggi ufficialmente riconosciuto anche dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in quanto proprio compare nella descrizione di un settore disciplinare che è la chimica degli alimenti a cui io appartengo. Ecco, che ci siano dei cibi che facciano meglio di altri o che siano appunto che abbiano delle caratteristiche più salutistiche, questo lo sapevamo. Però perché c'è addirittura una disciplina che le studia? Perché forse ci sono alcune caratteristiche che non conosciamo appieno di alcuni alimenti? Beh, sicuramente, essendo una disciplina nuova, c'è ancora moltissimo da studiare. Perché è importante sapere quali alimenti hanno degli effetti protettivi sulla nostra salute e quali magari invece hanno degli effetti che possono essere essi stessi causa dell'insorgenza di patologie è abbastanza ovvio e chiaro. Un'alimentazione corretta, equilibrata, che contiene degli alimenti che hanno delle proprietà salutistiche, quindi potremmo dire tra virgolette buoni, è sicuramente un'alimentazione che ci protegge dall'insorgenza delle malattie, soprattutto quelle malattie croniche legate ad esempio all'invecchiamento, come le malattie cardiovascolari, le malattie neurodegenerative, anche alcune forme di cancro. Gli alimenti non possono vantare effetti terapeutici, ma ecco, oggi questo lo sottolineiamo. Possono vantare effetti protettivi. Chiare. Ecco, ma voi fate ricerca sia per riuscire a introdurre delle modifiche magari in alimenti che usiamo tutti i giorni, ma anche per scoprire nuovi alimenti che possono avere grandi proprietà. Diciamo che questi due obiettivi sono contemporaneamente presenti nelle nostre ricerche. Infatti c'è la possibilità, studiando dei nuovi alimenti, di andare ad individuare nuove proprietà salutistiche. Se posso fare un esempio, certo. un lavoro si è focalizzato sullo studio dell'effetto del tè GABA, che è un particolare tipo di tè ricco di questo composto, la cui sigla, come ho detto, è GABA, corrisponde a un composto dal nome magari un po' difficile, acido gamma-aminobutirrico. Che tipo di tè? Cioè, è un tè verde, esatto, un tè bianco? Dunque, esistono vari tipi di tè GABA, dal tè verde al tè oolong piuttosto che al tè nero. Questi tè sono risultati essere attivi nella riduzione di alcune manifestazioni di depressione secondaria. Questi studi sono stati condotti con una collaborazione internazionale e sono stati condotti su animali da esperimento nei quali era stata indotta una forma di depressione secondaria allo stroke, che è praticamente l'ictus, okay? Sì. Si è visto che questo tè verde riesce in qualche modo a ripristinare l'umore di questi animali da esperimento e svolge questa azione attraverso attraverso un'attività antiossidante che si verifica in vivo negli animali. E si trova questo tè in Italia? Questo tè in Italia è presente, non è molto consumato, però si trova nei negozi specializzati. Erboristerie. Quindi potrebbe esserci anche una diffusione in seguito a questi studi, se venissero confermati nell'uomo, di questo tè anche in Europa. Ecco, interessante. Okay. Una cosa che volevo specificare, quando si parla di nutraceutica, giustamente c'è tutta questa parte che diceva lei di studiare appunto le caratteristiche salutistiche degli alimenti, in questo caso del tè verde, di alcuni frutti e così via. E poi ci sono forse erroneamente accostati quei prodotti, come ad esempio abbiamo parlato in altre puntate a Foodlab, ad esempio il pomodoro nero mi viene in mente, o la patata addizionata al selenio, cioè alcuni alimenti che vengono addizionati ad hoc per essere più sani. Anche in quel caso si parla di nutraceutica? Beh, assolutamente sì, la nutraceutica studia gli effetti degli alimenti, sia che siano alimenti, come dire, confezionati ad hoc dall'uomo, preparati ad hoc dall'uomo, quindi, che so, addizionati di vitamine, di sali minerali, di componenti ad effetto salutistico non riconducibili a nutrienti, come questi componenti che dicevamo prima del tè verde, piuttosto che anche alimenti ottenuti, ad esempio, attraverso un miglioramento genetico dei componenti che sono presenti. Quindi si parlava ad esempio di pomodoro nero, è un pomodoro ricco di antocianine che è stato ottenuto attraverso selezioni particolari di questa tipologia di pianta, che ovviamente hanno delle proprietà magari migliori rispetto al prodotto, diciamo, come noi siamo abituati a conoscerlo. Grazie dottoressa Daglia, buona ricerca davvero. Grazie a voi per avermi contattato e buon lavoro a voi, a presto. Anche per oggi è tutto, seguiteci nelle prossime puntate di Foodlab.